mi fa restare sveglio e non so che farmene di tutto quel silenzio. Forse perché non so che fare e non so stare solo. Forse per illudermi o per spiccare il volo. Forse per la sabbia che mi scivola di mano, per sentirmi umile o per sembrare strano. Forse perché non so spiegare, ma non so farne a meno. Forse per partire ancora o per tirare il freno. Forse per aggiungere senza arrivare mai, per poter concludere quel che finirò poi. Forse per nascondere, mostrare a tutti voi di me l'invisibile che non saprete mai. Forse che la libertà in fondo è il mio bavaglio, forse è proprio il vento caldo che muove il mio ventaglio. Forse perché non so nuotare, ma non so andare a fondo. Forse invece troppa luce e al buio mi confondo. Forse per desistere e non mollare mai. Forse per combattere franchezza e ipocrisia, per poter sconfiggere tristezza ed allegria. So.